Un mio amico burlone, non più tardi di qualche anno fa, aveva l'abitudine di aspettare che all'edicola si radunasse un po' di gente, ci si aggregava e senza aspettare il proprio turno, no? Come quello che non vuole attendere in vano nel caso la merce da lui richiesta non fosse ancora arrivata, chiedeva a voce alta al giornalaio: è arrivato l'ultimo numero di Le Ore? E orgasmi bollenti? E altri titoli inequivocabili, no? Innescava immediati fermenti di riprovazione sociale. La gente si voltava e si guardava imbarazzata, lui si divertiva come un matto. Che la pornografia ci sia, ormai sempre più troneggiante in grande evidenza, lo sanno tutti, ma ipocrisia vuole che la si ignori. È implicito che vada acquisita di nascosto e l'assenza di testimoni parrebbe vanificarla, beatificarla beatamente. Un tempo, quando... le maglie censorie erano leggermente più strette, la pornografia arrivava per posta. Spesso da paesi più compiacenti, dove più semplicemente per antica tradizione non possedeva la medesima carica peccaminosa che possedeva nel nostro. La garanzia fondamentale sbandierata da le più e meno discrete inserzioni pubblicitarie era una sola: la busta in cui la merce sarebbe arrivata sarebbe stata chiusa, rigorosamente chiusa e priva di qualsiasi indicazione. Così quel che veniva considerata privatezza, costituendo tuttavia pubblica vergogna, era fatta salva. Circa un secolo fa, nella buona borghesia di allora, ebbe un certo successo una rivista intitolata La Scena Illustrata. Ed è in quelle antiche e linde pagine che mi sono imbattuto in Minerva. Non nella Dea della Guerra e delle Arti, uscita a frettolosi colpi di accetta dal cervello di Giove, ma nell'omonimo Istituto di Confidenza per la redazione di opere letterarie, artistiche, scientifiche e amministrative. A questa Minerva così concettualmente elegante da potersi definire Istituto di Confidenza, ci si poteva rivolgere per commemorazioni, insegnamento, distribuzione di premi, feste scolastiche, inaugurazione di monumenti pubblici e di ospizi, consegna di onorificenze, di medaglie e di diplomi, concorsi agricoli, feste in occasione di tiro a segno e concorsi ginnastici, banchetti ufficiali o familiari, compresi i brindisi e le congratulazioni, matrimoni, funerali, i ricorsi, cause o vertenze legali e amministrative. In tutte queste occasioni in cui si producono a voce o per iscritto testi, ci si poteva rivolgere all'istituto e dietro un modesto pagamento ci si sarebbe trovati senza problema. Il titubante, l'incerto di parola e di concetto, si sarebbe trasformato in un abile retore, domatore di folle e della varia umanità che, peggio per loro, avrebbero dovuto pendere dalle sue labbra baciate di inaudita facondia. La pubblicità di questa prodiga Minerva concludeva con un trafiletto che ha saputo attrarre la mia attenzione. Vi si diceva che ai signori clienti la ditta spediva i lavori ultimati entro 10 giorni dalla commissione e che li spediva in busta chiusa, suggellata e senza alcun segno esteriore. Così veniamo a sapere che la medesima forma di segretezza adottata anni dopo per celare la pornografia toccava molto prima ai prodotti di quella parola che era spesso fatta discendere dalle stanze più nobiliari dell'umano ingegno. Ci si vergognava e giustamente di qualcosa che in parte sarebbe poi diventato vezzo e pregio. L'industriale di oggi si vergogna forse di aver commissionato la pubblicità del suo prodotto al tale e dal tal'altro, a quell'altra agenzia? Il politico di oggi si vergogna forse dei discorsi pubblici che fa, tutti scritti e infiorettati di citazioni a cura di stuoli di intellettuali compiacenti? Si vergognano forse quei tanti che inviano bigliettini di auguri prestampati? No, anzi, accettano l'esproprio, lo accettano con gioia, addirittura con noncuranza, come se per il ruolo che ricoprono gli fossero dovuti parole e concetti belli e pronti da essere firmati, sottoscritti e rovesciati sul popolo soddisfatto e plaudente. Va da sé, è implicito in come vanno e come devono andare le cose, che oggi la parola di chi detta le leggi al mercato ideologico sia tanto fasulla quanto neppur sua, un servizio reso da esperti. Nell'attribuirla ad un unico soggetto, magari ad un leader, allora anche lì occorre che la gente ci investa una bella porzione del proprio capitale di ipocrisia. Nella continuità e negli sviluppi di questa pratica, dall'Istituto Minerva ai moderni laboratori dell'immagine pubblica di chi che sia e che sia, si sarà notato, aleggia una concezione borghese della parola che lascia sgomenti. Il bel discorso o il bell'argomento, perfino il brindisi o le congratulazioni, in quanto elaborati da estranei, a freddo, da esperti che per forza di cose non fanno parte della storia di chi poi dovrebbe materialmente pronunciarli, hanno perso qualsiasi rapporto con il valore d'uso e funzionano soltanto ad un certo livello simbolico per il loro valore di scambio. Sono campioni di linguaggio alienato per antonomasia e sono il segno distintivo di una classe sociale che per governare non ha affatto bisogno di stare dalla parte della ragione.